Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo ritornati, 451 frammenti sonori, puntata e trasmissione per coloro che si fossero messi in ascolto per la prima volta, i malcapitati, trasmissione che ormai da più di 10 anni qua su Radio Città del Capo continua a perseverare ai confini dell'impero con musiche sperimentali di ricerca ed avanguardia. 451 frammenti sonori la potete trovare sul nostro no blog intitolato proprio 451frammentisonori.noblogs.org per avere le informazioni inerenti alle puntate messe in onda fino ad ora. Da 2 anni circa le abbiamo inserite all'interno del blog, potrete ovviamente ascoltare le puntate di 451 in streaming o comunque la possibilità c'è anche di scaricarle, di poter visionare diciamo le scalette musicali e degli autori e soprattutto degli album inseriti nelle varie puntate in questo appunto blog no blog. 451 frammenti sonori ritorna questa domenica notte, la penultima puntata nell'anno 2012, questa la condurrò solo io, dunque un saluto e una buona serata da Elisio Scarpa, ma anche ovviamente virtualmente dal compagno di viaggi, anche se di viaggi ne facciamo pochi insieme, lui ultimamente si è fatto anche un bel viaggio, io è da parecchio che non faccio un viaggio importante, ma va bene così, i viaggi miei sono mentali o collegati comunque ai percorsi musicali. Buon Max Mac, ed un saluto caro a lui e anche lui sicuramente virtualmente vi saluta sulle onde di Radio Città del Capo, onde un po' torbide ultimamente, non tanto per Radio Città del Capo ma per tutti i media in generale, sarà anche collegato a questo il tema di stasera. E comunque vi ricordo che anche domenica prossima ci sarà probabilmente l'ultima puntata del 2012 condotta da Max Macchia. Io non ci sarò e partirò non per un viaggio importante ma per un viaggio interno a questo malfamato e disgraziato paese. E proprio su questo, insomma, i media continuano a farci a disorientare fondamentalmente gli ascoltatori o gli utenti video e del digitale, non solo, con trasmissioni e campagne politiche proprio per distogliere lo sguardo o la rabbia più che tutto al disastro sociale, economico e politico di questo paese, un capitalismo, quello italiano, ancora più devastato e devastante di quello che vive l'intero mondo occidentale, non solo in questi anni di crisi. Continuano a propinarci primarie a destra manca che non servono a nulla e soprattutto questa sorta anche di oddio la caccia lupo al lupo per il rientro di Berlusconi in campo, insomma cose che distolgono in realtà dal timone guida del capitale italiano e internazionale che spinge verso il disastro sociale, verso i tagli, verso una continua attacco ai diritti dei lavoratori. Non a caso nelle ultime puntate abbiamo incentrato molto l'aspetto politico, come anche questa sera. È un aspetto politico ma anche un po' assurdista e divertito rispetto alla cosiddetta fine del mondo, ma ci sono dei giornali o comunque dei siti internet che stanno veramente continuando a battagliare su questa cosa, facendola passare come una cosa assolutamente possibile o realistica. La fine del mondo, parliamo di quella che dovrebbe avvenire tra il 21, qualcuno dice il 23, collegata a questa ormai conosciutissima profezia dei Maya, non l'ape Maya, i Maya proprio la popolazione antica ovviamente delle Americhe, che aveva appunto, secondo delle interpretazioni oltretutto occidentali, segnalato nel 21 dicembre 2012 la fine del mondo. E su questo giocheremo, infatti la puntata si intitola Segnali sonori dalla fine del mondo e giocheremo attraverso un percorso musicale appunto che passa attraverso dimensioni apocalittiche, tra il semiserio, il faceto e soprattutto percorsi sonori un po' assurdi, attraversando soprattutto nella prima parte il territorio rock che spesso noi non lo affrontiamo e soprattutto io che non percorro tanto frequentemente questo territorio. Dunque una prima parte dedicata a un rock sperimentale e di ricerca, per poi arrivare a una seconda parte che passa attraverso dei percorsi elettronici e improvvisativi e sperimentali, molto giocosi, molto deliranti, catastrofisti, ma anche nell'assurdo. Infatti sicuramente coloreremo con un certo divertimento l'immagine che inseriremo proprio per la puntata da inserire nel blog. E apriamo con un grande personaggio, David Thomas, grande frontman dei Pere Ubu, ma anche musicista assolutamente eclettico e dissacratore, che ha attraversato il rock, l'elettronica, ma anche tantissimi altri linguaggi musicali, costruendo anche altre formazioni che sono state sicuramente importantissime, come Rocket from the Tombs, e anche un altro progetto che è appunto quello che andremo adesso ad ascoltare, quello di David Thomas and Two Pale Boys, un album, quello che andiamo a pescare, splendido oltretutto, uscito nel 2004, 18 Monkeys on a Dead Man's Chest, uscito appunto nel 2004, e il brano in questione oltretutto è collegato a questa idea della fine del mondo. Per me la fine del mondo c'è già da parecchio tempo, per il disastro economico, politico e sociale che stiamo attraversando, ma comunque il brano si intitola Prepare to the End, dunque prepariamoci alla fine, e in questo modo quasi ad esorcizzare una fine che chissà è già passata, è attuale, sarà futura, David Thomas percorre con un brano splendido questo territorio che appunto è Segnali Sonori dalla fine del mondo, 451 frammenti sonori, parte dunque la puntata Nel delirio della fine del mondo. Buon ascolto con David Thomas. Thank you. things are strange. I'm sort of mountain. I get paid to dream. I'm sort of mountain. So I dreamt about you. I'm sort of mountain. So I dreamt about you. I'm sort of mountain. People are strange. I'm sort of mountain. The stories change. I'm sort of mountain. Shall I tell one to you? I'm sort of mountain. Shall I tell one to you? Well, they tell a story here. Soda Mountain concerning Mr. Brady and his soot-like companions. How they shoveled on the coal, how they set the whistle screaming. You should see the locomotive rolling down the mountain. And we're making up the time. Soda Mountain time is making up for time spent. Soda Mountain, when they found me in the wreck, with my hand upon the throttle, I was scalded by the steam, and I died inside the rain. All you ladies take a warning from Soda Mountain, and be good unto your man, lest he's lost into that mountain, then he'll wave to you. From Soda Mountain, then he'll wave to you. E siamo rientrati in diretta dopo questa bomba esplosiva, straordinario brano David Thomas and Chappelle Boys, album 18 Monkeys o The Dead Man's Chest, 2004, uno splendido lavoro, ma David Thomas ha continuato anche con progetti che sono stati assolutamente quasi resuscitati dal passato, e in particolare un altro progetto importantissimo sulla scena della metà degli anni 70, tutti gli anni 70, come una delle formazioni più interessanti americane del proto-punk rock. Parliamo di Rocket From the Tombs, che avevo già inizialmente citato, altro progetto dove era interno anche David Thomas, ma troviamo anche Tom Foley e personaggi importanti come Greg Bell, Peter Lautner e Johnny Madman Madansky. È un progetto importantissimo, appunto della metà degli anni 70, nato a Cleveland, che è stato ricostituito sempre da David Thomas, da parte di componenti storici di Rocket From the Tombs, proprio all'inizio degli anni zero, costruendo una sorta di disco che recupera appunto il titolo stesso dell'album del 2004, il Rocket Redux, e il brano oltretutto è collegatissimo alla trasmissione di stasera. Anche questo progetto era dissacratore, comunque legato a tutta un'iconografia punk, ma anche poi successivamente a una iconografia anche no wave che attraversò gran parte dell'America più sperimentale legata al rock, non solo. Questa sorta anche di assurdismo, di delirio riportato, legato anche a ipotesi apocalittiche, a ipotesi distruttive e appunto legate anche a quest'idea della fine del mondo, e dobbiamo prepararci. Ci prepariamo attraverso anche questo segnale sonoro, scusate ma i rospi probabilmente legati alla fine del mondo stanno uscendo dal mio gagarozzo, Rocket Redux, appunto realizzato nel 2004, con il brano che abbiamo selezionato entra proprio nel pieno di questo tema di stasera. Infatti il brano è intitolato in particolare Final Solution, dunque soluzione finale, e questa soluzione finale che dovremo attendere tra qualche giorno, forse questa soluzione finale la stiamo già vivendo in questi anni, in questa decade, ultima decade che è stata così pompata, il nuovo millennio, in realtà lacrime e sangue sembra che stiamo veramente vivendo. In Italia non ne parliamo proprio, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi soprattutto, sentire leggere giornali o sentire radiogiornali o telegiornali è veramente inquietante, perché si parla di tutto meno che delle cose più importanti che stanno attraversando questo paese, non solo. Sentiamoci anche loro, dunque, Rocket from the Thumbs, il brano è Final Solution, l'album è Rocket Redux. Touch me 'cause I got a misdirection. Thank you. soluzione finale dentro appunto i segnali sonori dalla fine del mondo. Ormai mancano pochi giorni, dunque ci dobbiamo preparare, e attraverso questi due percorsi di Tevi Thomas and Two Pale Boys, Rockin' from the Thames, Rocket Redux, ricordiamo il disco che abbiamo appena ascoltato, entrambi poi gli album sono usciti proprio nel 2004, andiamo a pescare un'altra formazione assolutamente importantissima sulla scena rock punk, ma la definizione è abbastanza limitativa, una formazione assolutamente obliqua, aperta anche a qualsiasi contaminazione musicale e di linguaggi anche distanti dal rock, formazione ancora estremamente attiva e ricca anche di idee e di originalità. Parliamo dei Wire, questa volta ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Inghilterra, formazione storica degli anni 70, a fine anni 70, 1977 la data praticamente di fondazione di questo storico gruppo, Wire, che appunto hanno continuato a produrre materiali, a reinventarsi. C'è stato anche un periodo un po' di ferma, anche abbastanza lungo, che ha attraversato fondamentalmente gli anni 90, riprendendosi negli anni 0, arrivando a questo disco che abbiamo scelto per questa puntata dedicata alla fine del mondo. Alla fine del mondo è tra poco, bisogna organizzarci anche per la scelta dei materiali, dei dischi da portarsi dietro, non si sa, verso un al di là o un al di qua, oppure verso il totale oblio, e abbiamo scelto Red Barket 3, uscito appunto nel 2011, un disco dunque piuttosto recente, con un brano che ci è sembrato assolutamente azzeccato per l'atmosfera che volevamo creare. Sentiamo appunto Wire. Let's do, okay, well, should we try another, play it again, yeah. You want to hear I Want to Be Your Dog by the Stooges? Okay, enough fun. E siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix con Wire da Red Barked Free 2011 e ovviamente i tanto citati Pere Ubu che abbiamo appunto già introdotto all'inizio della puntata di stasera, da un album del 1999, Apocalypse Now, un album dal vivo, insomma, il titolo dice tutto, Apocalisse Adesso, per Eubio, gruppo assolutamente seminale, fondamentale sulla scena musicale, sperimentale, attraversando rock, punk, post-punk, no wave, ma veramente qualcuno la definisce anche art rock, insomma, c'è di tutto di più, però in realtà è una formazione che è stata capace di reinventarsi e di costruire un linguaggio personalissimo, originalissimo, che ha attraversato, insomma, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, una discografia assolutamente importante che è appunto andata avanti, ormai si tratta di 30-40 anni, insomma, circa. Dunque, insomma, qualcosa di parecchio importante per Eubo con David Thomas, insomma, che spadroneggia in questa prima parte di puntata, segnali sonori dalla fine del mondo, e questa fine del mondo, insomma, che è, insomma, è vicinissima, 4-5 giorni, ci prepariamo, e ci prepariamo anche con un delirio, assoluto, sempre nel tema legato alla dimensione, al linguaggio più strettamente rock, ma andiamo a pescare, dopo questo importante, insomma, citazione, collegamento alla formazione che sia io che il buon Max amiamo particolarmente come per Eubo, andiamo a pescare un altro autore che ultimamente ci piace parecchio. Abbiamo scoperto che ha questo aspetto assolutamente dissacratore, delirante, decostruito di un certo rock, ma anche una certa disco che viene rimasticata e reinserita all'interno invece di un percorso assolutamente sperimentale, è Alan Licht. Alan Licht, che abbiamo già fatto passare in questa nuova programmazione musicale 2012-2013 già un paio di volte, ritorna ma da un altro album. Abbiamo attraversato un album che è stato per noi assolutamente quasi disvelante, di un certo modo di decostruire e ricostruire la disco o anche il rock. Abbiamo scoperto, appunto, dopo Please Well, che abbiamo mandato in onda almeno un paio di volte, abbiamo trovato un altro disco assolutamente importante, uscito nel 2003, sempre di questo grande chitarrista americano di New Jersey, che ha attraversato veramente tutta la scena sperimentale, dal noise al rock, al jazz, all'elettronica anche più spinta, seppur sempre interfacciata col suo strumento cardine che è la chitarra elettrica, seppur trasformata e quasi, appunto, creata un nuovo strumento, una nuova dimensione sonora attraverso la chitarra. Abbiamo scoperto questo disco del 2003, New York Minute, che, insomma, è collegato anche alla famosa strage dell'11 settembre del 2001, e ripercorre fondamentalmente quel periodo e quella cosa terrificante che comunque sono state la distruzione delle due torri gemelle, attraverso la registrazione sonora di concretista, praticamente, di moltissimi suoni, di voci e di interventi radiofonici, televisivi, ma anche suoni che vengono carpiti attraverso, appunto, il suo passaggio nelle vie, nelle strade di New York in quei giorni, per poi praticamente collegarle in maniera assolutamente assurdista a un brano rock, anche con alcune venature abbastanza glam, in qualche momento addirittura trash, ricollocandolo dentro una sorta di loop e ricostruendo, insomma, anche questo rock più dozzinale dentro una totale ricerca sperimentale. E con questo flusso, che partirà con circa 2 minuti e mezzo di suono concreto, di voci e di parlato americano, emergerà piano piano, quasi in una sorta di tunnel che poi apre e sgorga questo suono in maniera assolutamente imprevista, questa manipolazione sul rock da parte di Alan Licht, e chiuderà, insomma, la prima parte di questa puntata dedicata, appunto, alla fine del mondo. Riprenderemo dopo questo brano splendido di Alan Licht dopo il GR di Radio Popolare Network, dunque rientreremo intorno a 00:50 per la seconda parte, che invece attraverserà una sorta di nostro racconto sonoro della fine del mondo, o di anticipazione, di segnale appunto verso la fine del mondo, attraverso appunto linguaggi legati più all'elettronico, un'elettronica in alcuni casi connessa alla cosmice music, in altri casi invece più assurda e delirante come quella di Tom Rechion, ma anche attraverso altri percorsi sonori che ricordano anche le dimensioni più squisitamente elettroniche, figlie degli anni 90, in particolare con gruppi e formazioni che si rifanno, comunque hanno le proprie radici nella warp e soprattutto in formazioni come Otecre, per poi anche attraversare altri progetti che si muovono sulla sperimentazione giocosa e delirante, che vuole insomma giocare con una sorta di parodia della fine del mondo, quasi a esorcizzare questo momento che non ci sarà, ma che sì, vogliamo insomma credere che ci possa essere. Intanto godiamoci questo flusso e questa genialata ulteriore di Alan Licht e New York Minute, uscito nel 2003. Ascoltiamocelo insieme. Il brano in realtà è tratto da questo doppio CD e abbiamo selezionato la seconda traccia, che è Freaky Friday. Buon ascolto. A chilly wind blowing out there, averaging about 17 miles an hour at this hour, so bundle up if you're heading out with the sunshine. We're looking for a high here in Midtown of about 38. Clearing out and cold tonight, less wind, lows ranging from 18 in the suburbs to about 26 here in Midtown. Tomorrow we're going to see some clouds showing up late in the day, but it will be mild in the afternoon, the high 42. We look for temperatures this afternoon to get above 40, and there'll be sunshine and some high clouds. Tonight those clouds will thicken up, and tomorrow a storm system will bring us some rain. There may be a time period early tomorrow morning or late tonight in areas well north and west of the city where that rain freezes and causes some iciness, at least for a while. But then during the day tomorrow, temperatures get into the 40-degree range. That rain may be having some impact on those accidents that we heard about in shadow traffic, because north and west of Interstate 287, the air temperature is close to and in some spots below freezing, and the ground is frozen also, and we are getting some freezing rain. But close to the city, the adjacent suburbs, in the five boroughs and on Long Island, it's just rain. Some of the rain will be heavy, and then late afternoon it'll taper off and end early this evening, and temperatures get into the 40s. Tomorrow, clouds can break for some sun, and maybe it gets to 50. Well, we are looking at clouds and some sunshine today, James, and we're also looking at an area of rain, which is in eastern Pennsylvania now. It looks like it's tending to shrink as it comes eastward, but it's certainly going to move into northwest New Jersey within the next hour. And I think there will be some rain in areas north and west of Interstate 287 today. And there certainly could be a shower in parts and other parts of the metropolitan area. But a mild day getting up to around 50. Highs tomorrow in the 40s with a mix of clouds and sun. And most importantly, James, it's Groundhog Day Eve, just one day before the big holiday. The weather today looks like it's going to be just fine. Clouds, there's a slight chance for a sprinkle this morning, but there'll also be a few breaks of sunshine. And the temperature getting into the 40s. Tomorrow there may be a couple of hours of either wet snow or rain as a cold front passes through. Now, Staten Island Chuck did not see his shadow, meaning that spring is getting ready to spring. But, of course, Punxsutawney Phil did see his shadow, indicating six more weeks of winter. We've also heard from Buckeye Chuck out in Ohio, and he agrees with Staten Island Chuck, and they're against old Punxsutawney Phil. So we've got battling groundhogs here, and I guess time will tell, as it usually does. As far as weather is concerned, another mild day today, but then it turns colder tonight. There can be some rain and snow this afternoon and evening, maybe a few hours worth. At this point, we are not anticipating any snow accumulation, but it will be a whole heck of a lot colder tomorrow, despite sunshine. High temperatures tomorrow will only be in the 30s, and maybe not too far into the 30s.